in the twilight, the day turns to night, and I'm alone. Con questo brano molto, molto divertente, molto, molto goliardico, iniziamo uno dei programmi peggiori di Radio ZM. Bentornati e bentornate. Il più seguito, insomma. Il più seguito. Il più seguito, esatto. Avete ragione. Tra l'altro oggi è partita una discussione atroce tra Guglielmo, me e Chiara. Dopo vi Chiara chi? Chiara, la Buzzi. Sì, la Buzzi, l'unico faro della notte di questo programma che arriva verso la fine. Dovrebbe arrivare comunque. Dovrebbe arrivare, esatto. Yeah. Intanto, prima di scaldare i motori e mettere la sigla, partiamo con un paio di informazioni. Vi ricordo il canale Telegram, la chat Telegram su cui scriverci, Radio ZAM trattino basso chat. Collegatevi, scriveteci insulti solo come voi sapete fare. Già inizia, ma no, cioè l'unico che non deve veramente presentarsi perché è un pusillanime che preferisce i soldi e il mero capitale. Abbiamo l'ospite dal vero cosa stai dicendo? Gioia, parla con te, mi sa. Parla con me? Sì, alza la voce che ti sente poco. Accidenti. Dice Madonna che palle. Gulli è quello che... Non sa cosa si perde, tra l'altro. Esatto. Gulli è quello che viene definito les incompetents. Les incompetents, giusto. Les incompetents. Tra l'altro è una citazione di un film bellissimo degli anni 90. Che dopo diciamo qual è, solo dopo però. Quindi... Anzi, forse anni 80. Secondo me è più anni 80. Vero. Sì. Lo dico anch'io. Continuiamo le anticipazioni, ma non avevamo detto costi di ZAM? Ah, no, praticamente, niente, l'altra sera abbiamo implorato Costanza di fare Zona Rossa, ma ci ha pisciato male. Guglielmo era convinto che ci avesse detto di sì, invece era visibilmente in imbarazzo nel dirci assolutamente no. Ma questo è Zona Rossa, questo è quello che ci piace, quindi dopo vi raccontiamo del seguito, del distaccamento, della scissione di Zona Rossa in Zona Blu, che è un'anteprima anche per le persone che sono con me in radio, ma poi ne parliamo perché è interessante. Parleremo di... evidenziatori, e quindi probabilmente chiederemo alla gente la prima cosa che ha evidenziato in vita sua. Che wow. Potrebbe essere una domanda trabocchetto. Non evidenziato con l'evidenziatore, ma evidenziato di sottolineato, di in senso metaforico. Infatti noi potremmo parlare filosoficamente dell'evidenziare, del concetto di evidenziare. Esatto. Ragazzi, siete troppo profondi. Grazie Gioia. Meno male che c'è Gioia. Sei gentilissima. Io skipperei quella traccia perché secondo me a Gioia non piace. Ah, bene, meno male, adesso... meno male che abbiamo un censore qua che ci dice cosa è meglio fare. E cosa è meglio mettere, ma io in questo momento mi sento che metto però, la sigla. Scusatemi, quindi, sì. Però io so una cosa. Aia. Io so che i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici vorranno ascoltare del reggaeton. Ma noi non seguiamo ciò che vogliono i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, quindi se possono accomodare in un angolo. Fondamentalmente, Gioia, noi non abbiamo ascoltatori e ascoltatrici. Ogni volta che parliamo dei milioni sono tutte cazzate, non è vero? Invece sì. Ce li abbiamo e sappiamo di per certo che non vogliono la reggaeton, ma l'avranno e gliela daremo, forse no. Comunque questa è Zona Rossa, questa è la sigla. Grazie Gioia, grazie Gigi, ci sentiamo fra pochissimo. Non ho parole. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Lo stiamo facendo. Siamo già in mood di punitivo. Mood punitivo. Ma tra l'altro questa sigla è meravigliosa. Grazie Gioia, grazie. Non ho mai ascoltato questo programma. No. E tu pensa che quegli artisti, i famosissimi Seatbelts, l'hanno fatta apposta per Gulli e Pica. Esatto, esatto. Incredibile. Hanno fatto il remake perché questa è Cowboy Bebop e hanno detto no, facciamola con qualche accordo un po' così, un po' diverso proprio per voi. Sì, c'è Si bemolle a un certo esatto, punto. Esatto, esatto. C'è la versione zona rossa, Red Line. Anche un diesis. Red sì, Zone. Esatto, brava, esatto. Vedo che te ne intendi anche tu. Certo. Allora, stiamo componendo il numero di colei che un giorno prenderà il mio posto. Perché non si può scappare da Zona Rossa. No, ma Zona Rossa ti viene a prendere purtroppo. Quindi grazie Zona Guglielmo. Rossa ti cerca. Grazie Ingloba. Guglielmo che ci ha ricordato. Intanto salutiamo Boubacar che è arrivato. Ciao Boubacar. E grazie Guglielmo che ci ha ricordato. Ciao Costanza. Sei su Zona Rossa, Costanza. Penso che tu lo sappia. Ciao Costanza. No, perché fondamentalmente tu ti ricordi cosa è successo sabato sera? Ma per caso stavi dormendo, Costanza? Minchia, ragazzi, sto morendo. Abbiamo svegliata, giusto così, anche questa è Zona Rossa. No, beh, devi ricordarti di cosa è successo sabato sera e raccontarci del perché tu non sei qua adesso. Ma mi ricordo. Allora, non ho un motivo, vero? Ah. Per fare il pisolino è un buon motivo. Però, però. Racconta agli ascoltatori e alle ascoltatrici cosa è successo sabato sera. Allora, presi dalla gioia e dalla voglia di fare e di vivere, abbiamo deciso di sfidare il compagno Sido. Bene, bene. E poi ho avuto un grande onore e onere, che infatti non sono riuscita a sostenere oggi, però a mia discolpa non c'è neanche un'altra persona. Ah. E di chi stai parlando? Mi è stato richiesto di Guglielmo. Ah. Dici, dici. È che dovevo condurre con voi, ragazzi, però senza dubbio. Ma questa cosa del senso non avverrà mai e quindi dobbiamo scordarcelo e continuare a telefonarti banalmente per farti venire qua obbligatoriamente, oppure prima o poi ci degnerai della tua favolosa presenza qua a Zona Rossa come Coco. Ma vi degnerò, vi degnerò. Okay. Però prima devo andare degli esami, perché sennò fa male. Certo, certo. Niente, diciamo certo. Gioia perché non sa l'italiano, è appena arrivata, poverina, sul barcone. Quindi lei ha detto Santo che ha gli cielo. Esami. Ha detto che ha gli esami, per adesso non può supportarci, ma poi arriverà. Ovviamente, sì, sì, sì. La senti, Gioia, che ti saluta? Sì, sento tutto. Mi chiedo ancora come sia possibile tutto ciò, che le persone che sono in quell'angolo con quel microfono scadente riescano a sentire le telefonate. Perché io sono meravigliosa, ovvio. A pomeriggio, vedi? Hai capito? Incredibile. Bene, Costi, quindi stavi sognando. Perché dormi alle 19:15 di sera? Raccontaci cosa succede. Giornata difficile. Giornata difficilissima. Giornata difficilissima. Non so dove presente quando bisogna organizzare le vacanze e quelle cose lì. Certo. Sto morendo. Mannaggia. Però ho fatto finta di studiare, questa cosa mi ha un po' uccisa. Ho capito. Comunque c'è Gioia che vuole chiederti qualcosa. Costanza, vai. Raccontaci cosa hai sognato. No, in realtà ero tipo in dormiveglia, quindi nulla. Ma è una cosa triste. Il tuo cervello cosa ha elaborato in questo dormiveglia? Ma diciamo che ho fatto un quadro, un'analisi della mia situazione scolastica e... e sono un po' una merda. E hai avuto gli incubi? Esatto, sì. È più vicino a un incubo che a un sogno. Ma no, che brutto. Ma invece Costanza, noi praticamente come ogni volta abbiamo sempre un tema cardine su cui abbiamo riflettuto così tanto che ci vengono in mente sempre domande, eccetera, quindi le rifacciamo a voi. Volevo sapere da te, proprio così di pancia, anzi te la fa Gigi la domanda. Sì, stavo pensando a qual era perché non me la ricordavo più, però... Allora, io prima di farti la domanda ti volevo dire che mi dissocio da questa cosa che rompono le scatole alle persone che si riposano nel loro tempo libero. E quindi vabbè. No, siccome il numero di telefono è mio, non vorrei che poi la gente cominci a denunciarmi per stalker, stalking e robe varie, quindi no, faccio questa premessa a ogni telefonata. Dopodiché ti volevo chiedere qual è stata la prima cosa che hai evidenziato nella tua vita. Oddio, la domanda stronza. Raga, ma oggi siete belli in gallina. Eh sì, abbiamo mangiato filosofia stamattina. Esatto. Ma stiamo parlando proprio evidenziare o è... E questa è la tua discrezione. Esatto, come allora senti? Allora faccio anche la filosofa. Ci piace. Allora, la prima cosa che ho fatto come tatuaggio, ovvero io sono, grazie a Dio, dei genitori fantastici che mi hanno sempre permesso di fare più o meno quello che volevo, e quindi il concetto di libertà e di autonomia forse è il primo vero concetto che ho avuto molto proprio scrivere addosso, quindi proprio pensare a 3000. Ma l'hai già detto il concetto? Autonomia e libertà. Ah, autonomia e libertà, bene, ok. Quindi questa è la cosa che ti senti che hai evidenziato per primo nella tua vita. Beh, secondo me sì, dai. Ottima risposta. Sai che in realtà hai già rotto il rompicapo, perché noi volevamo che la gente si incartasse tra il pensare di evidenziare qualcosa e l'evidenziare come gesto fisico con l'evidenziatore. Ma non ti ho pensato, però mi sarebbe la domanda di merda, no? Gioia, dimmi. Dicevo, non è neanche così difficile arrivarci, eh. Ok, Gioia sostiene che gli ascoltatori e le ascoltatrici di Zona sono degli idioti. Bene, grazie, non Gioia. Non puoi paventare questa idea geniale, perché no, è ma no, di genio geniale. Qua c'è poco e niente, anzi forse niente, più che poco e no, niente. Molto, io volevo molto fare i complimenti a Costanza, che ha reso intelligente una domanda totalmente idiota, quindi questo è vero. Capisci Costanza? Perché dovresti essere qua e invece sei là. Ma infatti mi sono appena svegliato, adesso tranquillo che torno nel rincoglionimento. Ma Costanza, okay, questo è un sogno, non ti preoccupare. Tu metterai giù, prima ci consiglierai una canzone, ci consiglierai qualcuno da chiamare, e poi ti riaddormenterai. Quando ti sveglierai, questa cosa non sarà mai successa. Va bene? Sentiti libera di esprimerti come se fosse un sogno lucido. Che canzone vuoi ascoltare? Di chi? Jamal. Aha. Sono nostalgica tutto sommato. Qui Lorenzo fondo. Velocissimo sta scaricando la canzone. No, Gioia, non dire no, così. Ma no, è il del vinile. Allora, noi abbiamo... Qui non si scarica niente. Noi abbiamo delle copie originali in vinile che gli artisti ci hanno donato per poterci permettere di fare la trasmissione. Aspetta che vado in libreria di là, aspetta. Vabbè, ma mi io sto scegliendo. Sono ignorante. No, Gioia, vai a pigliare lo spolverino, così dobbiamo spolverare i vinili. Sennò aspetta, poi che... c'è la polvere nel forse solco. È di qua. Serve la puntina. Ah no, questo non è. Metto via, aspetta. Eccolo. Ecco, perfetto. Mica, polverato questo qua, è da un po' che non gira. Niente. E invece chi vuoi che venga disturbato dopo questa telefonata? No ragazzi, questo qua è proprio un onere invece. Questo non è un onore. Questa è l'infamata. Eh sì. Vabbè, io dico che dovreste incontrare un po' di compagni dell'area. Certo, magari quello che vuoi. Lambretta non lo chiamate mai, ragazzi. Sì, a voglia. Chi ha detto? Lambretta. Ma davvero? Lambretta lo chiamiamo, abbiamo fatto un giro di puntata solo loro praticamente. Allora chiamate la rete che non risponde mai. Ah, quindi ci sta e questa è una grande verità. Dici. Devo farvi il nome di un retino in particolare? Una retina in particolare? Eh sì, è certo, una persona, anche un numero. Perché se non ce l'abbiamo, ce lo devi pure inviare il numero. Però dici nome e se vuoi cognome. Nome che capiamo, e se non capiamo, devi darci il numero. Io voglio far chiamare Carlotto, perché secondo me ce la digna. Chi? Se vi risponde Carletto, mi giuro. Carletto, poi gli faremo il tuo nome, sappilo. Grazie. Gioia, tu conosci Carletto? No. Chiamiamo Carletto. Chiamiamo Carletto. È un giovane manzoniano, Gioia. Ah, quello con gli occhiali? Sì. Vai. Ah, grandissimo lui. A posto, chiamiamolo. Ci dai il numero, che non l'abbiamo sicuramente, ce lo mandi a me in privato. Giro. intanto okay. Che ci gustiamo la bellissima canzone che ci hai gentilmente concesso. E il vinile ovviamente adesso è più pulito, gira meglio, quindi grazie mille. E ovviamente è una minaccia che ti aspettiamo qua per la prossima puntata. Mercoledì ci sarà anche Cigo, ci ha comunicato, me l'ha promesso prima di uscire da ZAM questa sera. E okay. Ti arrivano messaggi di insulti, Gioia, dicono che sei pesissima, no, pessima. Peggio. Pessima. Sì. Che fa vero, madonna mia. Insomma, mandate sempre più insulti a Zona Rossa. Grazie mille, Costi. E mandaci anche dei bellissimi messaggi su Telegram. Ricordati il numero. Ciao, Costi. Ciao, ciao, scusaci. Ciao, ragazzi. Scusaci. Buonanotte. Perdonaci. Ciao. Ciao. Look who just jumped up on the scene. Pocket full of green, butter, leather, and all. I beat that nigga named Jamal. Mackin' hoes in the tight clothes with pretty toes. Uh-huh. Kicking flows for all the Roddy bros. And it goes, look, what? 1-2 to the break of 1995. Jamal representing, keep it live. It don't matter how I come on these funk floor tracks. With raps, we bout to still make snacks. We got bitches for days, riches it pays. Damn since changed since back in the day. In my mouth is where the blunt stays blazed. Then I get dazed, thinking of phrase to a mate. I'm getting busier, leaving hoes dizzier than they ever been with the grown men. Is he a straight loony type of nigga that'll drop the temperature? Bitch, I ain't really into to all the tramp gold diggers. Keep it real, yo. Gotta keep it real, yo. Keep it real, yo. Gotta to keep all it the misrepresenters. Keep it real, yo. Gotta keep it real, yo. Keep it real, yo. Gotta to keep all it the bitch real, ass niggas. Keep it real, yo. Gotta keep it real, yo. Keep it real, yo. Gotta to all the tramp gold diggers. Keep it real, yo. Gotta keep it real, yo. Keep it real, yo. Gotta I drop the lines yo. To blow your mind, y'all. Yo. When I be coming on that ill tip, my whole crew pack nines don't make me happy. The kill shit, I bring the flavor to your ear, smashing trash MCs from the front to the rear, in 95 until I still kick the ill, lyrical miracles, leaving rappers hysterical, I keep it raw, and when I got the gat, I hit them all, and on the MIC, I rip them all, yeah, word up, this is dedicated to my peeps on 60161 on the Philadelphiatic streets, take it to the recently deceased, H Town Tall D, rest in peace, word is fine, as the beat heat up, psychotic thought starts to lead up. I got the sauce to make the billboard bullet speed up. Yo, word up, right on, Jamal got the vibe, yo. And that's the deal on the real, I get ill, yo. It's Philly's finest behind this, doing damage. No matter how scandalous, they can't handle it. Handle what? Underground sand. Yeah. I stick my dick in the ground, then I turn the whole world around. And blow the sun up. This bomb, we blow the sun up. Niggas, they run up trying to stop to come up and get done up. Yeah. Put your guns up, I blaze your buns up when I rock. Niggas, they all stiff when the red dot. Today not, today not, today not, today not, today not, today not, today not, today not. To all the tramp gold diggers. Pezzone che ha scelto Costi, ma intanto sì, bello, per molto bello per prendere un po' di tempo, respirare, andare molto più light stasera, vi propongo un pezzone e sto creando una playlist che ho chiamato Zona Rossa per potenziali sigle, video idioti o cose stupide, e mi sto affidando alla bellissima cultura di Guy Ritchie e dei suoi film pazzeschi. Questa è la colonna sonora di EZ Rollers Walk This Land di Lock and Stock, tutta per voi, molto al sapore di Zona Rossa. White brothers and sisters. White brothers and sisters. White brothers. We'll be right back. musica pazzesca. Oh baby, baby. Grande musica su Zona Rossa, Radio ZM 19:30, Gioia. Molto, molto, molto bella. Grazie, Gioia. Dai, che palle. Musica pelosa, direi. State parlando solo voi. Gustosissima. Non è, ma non è vero. Beh, la nostra trasmissione ci sta. Se vuoi... Entriamo a gamba tesa il giovedì sera. No, perché Gioia vuole essere in tutte le trasmissioni di Radio ZM. Oddio, no. No, adesso tu parteciperai a tutte le trasmissioni di Radio ZM. Ognuna. Ho scatenato il mostro. Sì, adesso tu parteciperai a tutte. Perché domani c'è una bellissima trasmissione di Gioia dove parlerà di archeologia dalle 15 alle 16. Perché ridi, Gioia? Perché ridi? Hai detto che domani ci parlavi degli ziggurat, dei Maya. Dalle 15. Tutti... Però ricordiamo invece domani che altro appuntamento radiofonico c'è. Beh, ascolta, queste cose si fanno alla fine delle puntate. Invece io volevo parlare di un'altra cosa simpaticissima. Uffa. Perché in realtà mi ricordo che i primissimi giorni di lockdown Gioia era già a questi microfoni in maniera indipendente, autonoma e auto-organizzata. Aveva preso come ostaggio Dado, mi ricordo, e se l'era portato qua obbligato a stare con lei mentre io in bicicletta tornavo a Lambrate, perché ancora stavo a Lambrate. E sentivo Gioia che si destreggiava in maniera molto autonoma, in maniera molto... E ho messo un sacco di bellissima musica. Beh, su quello sì, cioè, è un tuo parere, hai messo della musica, un sacco molto, di musica. Molto, molto bella. Molto bella, magari dopo ti diamo spazio, forse no. E quindi, visto che ci hai comunicato questa tua necessità di parlare più di noi, prego. Dai, no, non così... È come lasciare la macchina al neopatentato, vai. Allora, abbiamo parlato di... Per favore, vicino al microfono. Cioè, oggi la puntata si focalizza sugli evidenziatori, metaforici e non. Quindi io in realtà, prima di chiamare il prossimo candidato... O la prossima, chiederei invece a Lorenzo. Ma è come... È come se Marzullo fa un programma e invita la gente e poi inizia a fargli le domande a Marzullo. Vabbè, ma scusami, ma noi tutti e noi tutte vogliamo sapere che cosa hai evidenziato per la prima volta. No, vabbè, ma questo ce lo dice dopo, perché adesso... Esatto. Ma poi, cazzo, chi se ne frega? Gioia, ma chi se ne frega di sapere cosa ha evidenziato Picca? È la scusa perché... Allora, se c'è gente. Qualcuno a cui interessa cosa ha evidenziato per la prima volta Picca, lo scrive su Telegram. Esatto. Ed è ma semplice. Tanto nessuno scrive su Telegram. Ma invece scrive un sacco di gente, forse nessuno scrive a te, Gioia. Dovresti farti questa domanda. A noi ci scrive un sacco di persone. Aia, aia. Lì c'è tutto scritto, puoi leggere, ci sono le date. Ma esatto. Invece volevo farti una domanda, Gioia, visto che tu hai citato Marzullo. Giusto. Io non l'ho citato. L'ha citato Picca, che comunque Marzullo è un personaggio di spessore. Molto. Citandolo ti dico, Gioia, fatti una domanda e datti una risposta. Dai, ma siete proprio cattivi. No, lo è Marzullo. Esatto, cioè... Ma è bello, è una cosa poi, cioè, è bellissimo. Mi sa che non parteciperò mai più. Quindi noi ne abbiamo perso già uno per strada, ne andiamo a perdere un altro perché ci mettiamo in contatto con una persona veramente che conosciamo molto bene e che l'unica cosa che sappiamo di certo, io so di certo che sia Gioia che Gigi sanno chi è, perché ci è stato consegnato dalla Costi. Ed è stato salvato dalla Costi come Carletto Marx. E ora andiamo a chiedergli perché. Intanto i Korn sono passati a zona rossa. Uè, oh! Costi ci dà numeri che non rispondono. Io, pur di non ricevere di nuovo la segreteria telefonica, metto giù e vi invito a chiamare Dario. È l'ora di chiamare Dario. Secondo me in questo telefono è probabile che ci sia già. Sì. Dovrebbe rispondere a nome di Daccio. Ma non è un vinile anche questo? No, dipende. Cioè, molto spesso c'è il live dietro qua, no? Che adesso puoi vedere i Korn che sono all'ultimo pezzo e sono passati poco fa. Mentre invece delle volte, soprattutto quando ci chiedono la musica, è un po' complicato che le band che ci seguono vengano in questo momento chiamate ora. Quindi quando ci chiedono la musica da casa, allora interviene il vinile in quel momento lì. Ma non mi hai visto prima? Mi sembra giusto. Non mi hai visto prima che stavo salendo sulla scala? Sì. Vabbè, dai. Nella stanza dei vinili, che è una stanza di 140 metri quadri solo di vinili. Che ci donano quando vengono qua. Eccolo. Secondo me ci aspettava. C'è Gioia che sta ridendo. Bella Orso. Ciao caro, sei su zona rossa. Boh! Oh, non me l'aspettavo questo. Ciao Daccio. Aspetta, no, mi devo preparare, aspetta, devo spegnere la TV, devo chiudere la finestra. Mamma mia. Sì, perché è tutta roba comando. Pericolosa quella che le diciamo, quindi se lo sente qualcuno... Esatto. Dario, sei contento? Sì, no, sono felicissimo, guarda. Lo sapevamo. Cosa stavi facendo? Ciao compagni. Ciao Silvia. Ciao, che piacere sentirvi. Però non ciao, è giusto Lambo. Che io so che ti hanno vista e noi non ti abbiamo ancora vista, però non è io giusto. Io ti ho visto, io c'ero. No. È vero. Io non sono c'ero. Andata domenica con Daccio. Ma io no, c'ero. Zia. Io sì. C'ero. Hai capito Gioia? Alle nostre spalle cospirano. Ma davvero? Sì. Pure Sveva me no, l'ha detto. No, ma mi piacere, io voglio passare, voglio venire. L'ha detto. E lunedì verrò in assemblea. L'ha detto, è stato registrato detto, nel podcast di oggi, Zona Rossa, Scoop, delle 19.35. Grazie Silvia, grazie. Esatto. Ma posso parlare con Dario? Perché ho paura che poi si offende che parliamo solo noi. No, non lo so, poi magari no. Ecco, ditemi. Oh, ciao Dario. Ciao Dario, come stai? Ciao. Come stai? Bene. Cosa stavi guardando alla tele? Niente, a dire il vero. Perché stavi ascoltando Zona Rossa? Sai quando accendi per far compagnia? Accendi la radio, per far compagnia, accendi la radio. Sempre la radio per compagnia. Cioè. È arrivato un ospite. Oh mio Dio! Un ospite qui in radio. Mi devo trattenere. Dario, Daccio, prova dovresti vedere sta scena. Aspetta, Dario, prova a indovinare chi è. Dario, ci senti? Sì. È arrivato un ospite, prova a indovinare chi è. Un ospitu. sta arrivando. È già qua, ha già varcato la soglia della radio. È qui con noi. Chi è? È Sergi? No, no, un ospite. Ospite è Fergi, mi ha detto un ospite, scusa, per favore. Un ospite. È importante. Okay, aspetta, allora. Importanza addirittura. Certo. Per questo programma è il traino. Sono io, sto per arrivare. Madonna. Che caldo, zona rosa stasera. Ma siete la coppia a cui facciamo più effetto. Terribile. Comunque. Ha detto. Cosa hai detto? È la Butch. Veramente viene la Butch. È già qui con noi. È già che dobbiamo farla diventare una video radio, perché la gente vuole vedere, la gente è curiosa, è giusto, no, così. Sì, andiamo a zona. E invece avrete solo il suono, mi dispiace, esatto. Se volete venire qua, c'avete anche il video. Se venite c'è anche il video. Esatto, Gioia, prendetevi il microfono, mettetevi vicine sul divano, così condendetevi il microfono. Allora, se venite qua avrete anche il video. Adesso se facciamo avere anche delle cuffie. Dovrete accontentarvi dell'audio. Oddio, sento. Dai, a tu cosa parli, dai? È la Butch. La Butch. Vabbè, noi qua siamo un po' rallentati, ma ci conoscete, lo sapete. Cosa mangiate stasera? Ma tra l'altro, allora, non faccio la spesa da 3 settimane. E quindi ho 200 grammi di pasta. 3 settimane. 3 settimane, veramente, raga. Ma che tristezza. È un po', eh? Eh sì, è un bel po'. In frigo ho 2 cipolle, dei wuster. Ti basta? No, del salmone e i curgonis. Beh, mi sembra che ci siano i presupposti per una pasta pazza fantasia. Ma poi c'è cioè, il salmone vecchio di 3 settimane? Perfetto, salmone, wurstel, sì, è già delirio. Meme consiglia anche un po' di ketchup in tutto questo. C'è un po' di salmonella che viene insieme con il salmone. Secondo me potrei resistere ancora fino al weekend. Secondo te? Riuscirei a resistere ancora fino al weekend. Probabile. Fare 4 settimane senza farlo spesa. Siamo già mercoledì. Se non mangi anche di più. Grazie. Cioè, almeno finché resisti. Ma sì, dai. Vabbè, dai, insomma, sì, dai, non vuol dire niente. Comunque, Dario, ti abbiamo chiamato per una cosa seria. Una cosa seria, Dario. Esatto. Vamo fare una domanda a te, Silvia, che siete tra gli ascoltatori più profondi che contattiamo. La domanda è la seguente: qual è la prima cosa che avete evidenziato in vita vostra? Evidenziato. Hai capito giusto. Quindi sia in senso letterale che figurato. Come vuoi interpretarla tu? Sta a te. Libera libertà. Ma probabilmente le unghie della mano. Stavo pensando anch'io. Cosa deve essere evidenziato? Le unghie della mano. Ah, anche cosa con la penna che non scriveva ma scriveva sui muri, non è proprio un'evidenziata, però bella, però ce l'avevo anch'io quella penna, me la ricordo. X-Pen, quella penna tipo X-Pen, una roba del genere. Quindi una risposta molto Amarcord, molto vintage da parte, esatto, della però nostra mi associo anche preferita. Alle unghie di Daccio, esatto, anche quelle. Ti ricordi il colore, Dario? Ma sicuramente un giallo del merda, o un giallo o un arancione che andava negli anni 90. Un colore che va un po' di moda in questo periodo, l'arancione, questi giorni. Bene, ma non benissimo come zona rossa. Grazie, ragazzi. Ovviamente. Tra l'altro, a proposito di arancione, ma che come cazzo l'ha ridotto Pisapia l'altro giorno in piazza quei giri arancioni? Non l'avevo Pisa neanche Pisa riconosciuto Pisa. Che era Pisapia. C'era Pisapia? Ma davvero? Sì, raga, non l'avete visto? Pisapia sul palco dei Giri Arancioni. Non erano quegli arancioni lì, erano altri arancioni. Però no, ma infatti è facile sbagliare. Ma a me mi sembrava Pisapia. Era l'ex sindaco. 5G. Pappalardo, pensavo Pisa Pia. Secondo me c'era anche Pisa Pia. Può essere. È sicuramente senza un colore. Mascherina c'era anche Pisa Pia. Con quel colore lì poi. Vabbè, comunque, bando alle ciance. Sapete che la situazione è molto calda, quindi Daccio o Silvia. Anche se forse Silvia non sceglie mai, perché sceglie sempre Daccio, quindi boh. Se voleste consigliarci una canzone da ascoltare. Sì, ok, va bene. Mio Dio, io non ce l'ho mai, vedi. Ma dai, ma anche due, perché in questa puntata qua è molto, molto distesa, quindi potete sceglierne anche due. No, non mettiamo... ne nessuno. Me ne sono preparato solo una, ragazzi. Vabbè, una dai, testa. Dicene una, dai, vai tranquillo. Dei Rolling Stone. Quella. Shiva Rainbow. Vediamo se ce l'abbiamo già. Tu, Silvia, pensane un'altra nel frattempo. Sto pensando. Pensa al brutal metal. Brutal metal, dice. Ah, beh, ma infatti, ecco, sarei andata sul metal, ma magari la gente... Vai, che cazzo ce ne frega noi della gente? Ma infatti, allora, ma infatti, c'era, cioè, una canzone di Pantera che non mi ricordo. Gli Atroci, volevo un taglio semplice. No, non è vero. No. Dei Pantera? No, prendi tutti. Cazzo, non mi ricordo come si chiama. Datemi un secondo. Dove cazzo è YouTube? YouTube è su internet. Esatto, cioè partiamo bene, capito la situazione. O sul telefono, allora. Tua seconda Pantera, sicuramente è dei Pantera, ma mi esce Pantera Rosa come primo risultato, ma direi di no. Certo, ovviamente. Intanto ho trovato il disco dei Rolling Stone, Dario. Gioia ride. Quando mi avvicino alla stanza dei vinili, Gioia è piegata per terra dal ridere, non si sa perché. Tanto che la mia canzone Chi? Revolution is my name di Pantera. Aspetta che vado nel reparto. Che canzone sgrausa c'è in sottofondo, raga? La sentite voi in sottofondo la canzone? Sarà la disc di Gulli, sicuro. Madonna mia, no? Che tresciata questa. L'hai messa tu, Gioia? No. Ah, senti, è la scena di quando muore lei in Armageddon. Questo tra l'altro è un film molto sessista e stereotipato. Armageddon, Gioia, quella che arriva l'asteroide. Asteroide, Bruce Willis che muore, il padre deve che salvare si sacrifica la sua fanciulla. Beh, a prescindere, tutti i film con Bruce Willis non sono molto political correct. Anche Pulp Fiction. Soprattutto Pulp Fiction. Pulp Fiction è molto zona rossa. Vabbè, però Pulp Fiction è fatto appositamente così. È un film che è fatto per pensare. Esatto. Però no, dai, due o tre. Quindi non è per noi che non abbiamo il cervello. Vabbè, nel senso, qui abbiamo temporeggiato perché Pica non trova il disco. No, la P di Pantera è in fondo e devo andarci. Ma ti metti quello che vuoi. No, ma stai scherzando. Ma stai scherzando. Quello che vuole Lorenzo potrebbe essere, esatto, la morte. Esatto. Comunque sono arrivati i primi Rolling Stone, abbiamo pulito prima quel vinile, poi a seguire mettiamo i Pantera. Che dire, ragazzi, io sono sempre... Con troppe parole. Ascoltate, quindi la radio. Parla Gioia, dai, di qualcosa. Io ho già il tasto sul play qua, sul computer della radio, appena mi piange giù. Beh, qualcosa. Beh, Gioia ha detto qualcosa, ciao, io faccio partire Rolling Stone. Ciao ragazzi, Madonna, ci vediamo dopo, raga. Ciao ragazzuoli. Ciao, Silvia, ragazzi. Ci vediamo lunedì, l'hai promesso. Anche prima, spero. Gioia, basta pogare, vieni qua. Gioia. Non trovavo il microfono, scusate. Gioia, sei un po' spettinata, aspetta. Un poco violento tra Gioia, Gigi, Chiara e Hank. Finita malissimo. Ha vinto Hank, ovviamente. Sì, Hank che gomiti alti, tipo la mette in face. Esatto, esatto. Hank, riposati, bravo, bravissimo, grande. Sei un po' sporco di sangue, aspetta. Ok. Sì, è mio il sangue. Quindi noi andiamo avanti a fare il giro della morte e capitiamo nell'orecchio di colui che meno deve essere disturbato stasera, ma noi disturberemo pure lui. Probabilmente non ci risponderà, probabilmente ci manderà al diavolo. Noi invitiamo a farlo su Telegram via chat. Stiamo trasferendo la tua chiamata alla segreteria del... Ha spento il telefono. No, avevamo una persona alle nostre spalle che non c'è più. Volevo condividere con altre persone lo sgomento. Riprovo. No, scherzo. Chiamiamo lui. Chiamiamo Jacopo. Chiamiamo Jacopo, che siamo in astinenza perché io non lo vedo personalmente da almeno 3 giorni e non sto già bene. Mi gira già la testa. Quando ci penso, mi gira la testa. Quindi andiamo dal nostro Stumpietti, da Jacopino. Gli facciamo un bello scherzo con Chiara, che non se l'aspetterà mai. Vedi. C'è qualcosa che non va. Non ho capito. C'è il telefono di Norberto. Ah, ma probabilmente è al lavoro. Sì. Probabilmente è al lavoro. Perché cioè, è tornato a lavorare alla fine. Cioè, aveva raccontato che non sapeva forse di qua e di là. Io sono andato pure a trovarla a bere una birra con lui. Però magari. Comunque, per chi lo conosce da così tanto tempo, da quanto lo conosco io, pensare che stia lavorando, ma non in questo momento, proprio nella vita, è una delle cose più credibili, vi giuro. Ma infatti vi racconto quando sono andato a trovarlo, perché ho fatto il giardiniere lì vicino e ho fatto il giardiniere con persone che lo conoscono, che hanno vissuto anche con lui. Allora abbiamo detto, dai, andiamo a salutarlo, così io sono impazzito. Ho detto, sì, dai, che figata, entro nel bar sbracciando, ciao Stumpio. Ve lo giuro, raga, ve lo giuro, sembrava martoriato nell'anima. Era veramente depresso in quel momento lì. Voleva far Stumpio tutto è, meno no. che essere lì. Non riusciva a parlare bene. Cioè, non riusciva. Era proprio. Che palle. Tutto così. Ho detto, sarà felice di vedermi. No, niente. Non un barlume di non gioia. Non ha funzionato. Ringraziamo Kamasi Washington che è passato a zona rossa. Gioia, dici chi chiamare perché siamo a due buchi e tocca a te. Beh, lo sappiamo già chi chiamare, direi che posso... intrometterti col esatto. Jack, quindi stacchiamo di qua, attacchiamo di là. Perché abbiamo questa teoria. Oddio. Che dal mio telefono, magari dal mio numero... Ah, giusto, la teoria del... giusto, nell'elenco, sì. Andiamo adesso a chiamare... Adesso l'abbiamo detto in radio. Esatto, quando risponde gli voglio dire una cosa, così rimane spiazzatissimo. Sentite che rumori piacevoli, tecnicismi. Alziamo Kamasi Washington. Gioia in difficoltà, ma Kamasi se la cava molto molto bene. Non hai il suo numero, cioè tu proponi a Zona Rossa delle telefonate dicendo usiamo il mio telefono, che siamo meno sgamabili. Ma io non ho proposto niente, ma diciamo che è stato qualcun altro che non... è... Aiuto! No, sto chiamando... No, scusate. Niente, il colloquio che Gioia disagio. Sta andando molto male. Se speravi di avere un posto in questo programma, mi sa che... No. Guglielmo uguale. Guglielmo... peggiore di... Ah, adesso ho capito come l'ho salvato. Diccelo, Diccelo, no. Non ce lo vuole dire. No. Beh, sì, in modo semplice. In modo semplice, ok, perfetto. Allora. Quindi stiamo andando a chiamare una persona che chiama la gente lui. Si permette di chiamare le persone lui. Sicuramente starà pensando a quale articolo succulento scrivere fra 30 secondi, perché quello di 3 minuti fa ormai è andato. Quindi vediamo un po'. Tra l'altro spero che tenga anche la mia batteria. Ascolta, sei già veramente... Io non capisco, anche perché non sento squillare. Allora riproviamo. Secondo me la cover che hai dà dei problemi. Esattamente. Vai. Magari ha già visto le telefonate, ha già pensato, Dio, cosa ha bisogno adesso questa giovane squilla. Fanciulla da me? Pronto? Buonasera. Pronto? Allora, Teo, scusaci, sei in diretta su Radio ZM. Ciao, principe. Sono in diretta? Sei in diretta. Benvenuto. Aspettate che mi chiudo. Ah, scusate, aspettate che mi chiudo nel cesso, che è il posto che vi si addice. No. Sì, bravo, esatto. Vedo che hai già capito qual è l'andazzo qua. Benvenuto, vai, principe, vai, benvenuto. Ditemi. Come stai, innanzitutto? Si lotta. Oh. Poi... Ma scusa, questa è la mezz'ora Jalapas, immagino. Sì. È più Jalapas o la zanzara? Dipende dagli interlocutori. Esatto, siamo molto variegati. La zanzara allora sarà. No. Ragazzi, geni della radiofonia. Posso stare sui coglioni, ma sono geni assoluti. Ascolta, infatti dovresti venire in radio. Ti sei appena fatto un autogol pazzesco. Sì. Ti sei tirato no, ragazzi, in mezzo... ma non stavo parlando di voi due come geni della radiofonia, ma di Cruciani e Parenzo. Però Teo, pensaci. Ho sentito già che è calato il gelo in studio su questa affermazione. No, stavo cercando l'accendino, Teo, me lo sono allontanato. Vabbè, dunque, perché... Perché ti abbiamo disturbato? Beh, innanzitutto perché Gioia ha deciso di chiamare te. Non è vero, ma non come è non è vero? In secondo luogo perché pensavamo che a Gigi non avresti risposto. Sì, allora ti abbiamo chiamato dal telefono di Gioia per... No, ma io rispondo quasi sempre. No, è vero, vabbè. Però sai l'orario di cena, non era tra l'altro proprio... chissà cosa hai pensato quando hai visto il mio numero. Ma esatto. Non l'ho visto in verità perché non è, avendo, come voi sapete, l'anno scorso... Hai fatto il passo l'anno hai scorso. Fatto il passo, esatto. Ho fatto il grande passo, ho perso un sacco di numeri. Gioia non aveva il tuo numero, mi spiace. Aia. Mi spiace. Comunque il numero di Gioia, salvatelo per qualsiasi evenienza. Certo, che certo. Non useremo certo. Mai più quello per chiamarti in radio, se non capirai. No, niente. Vabbè, ma quindi voi avete la, non so, i 10 minuti dedicati alla chiamata. Ma che 10 minuti? Per i coglioni a tu qualcuno. Non hai capito, sì, no, no, il programma è proprio mettere delle canzoni e chiamare delle persone e fare a tutti la stessa domanda. Anzi, le stesse domande. E la domanda è: qual è la prima cosa che hai evidenziato nella tua vita? La prima cosa che ho evidenziato. Ma tipo con l'evidenziatore? Come te lo percepisci? Vai a sentimento. La prima cosa che ho evidenziato nella mia vita. Ma una roba che posso dire che sin da quando ero bambino, ma proprio piccolo, mi stavano sui coglioni in modo immenso i prepotenti. Questa è una roba che me la ricordo proprio chiaramente. Ottima risposta. E mi sono sempre stati sul cazzo e tuttora mi stanno sul cazzo, ovunque sia, non devo dire la verità. Ottima risposta. Vi ho zittiti? No, siamo in ascolto. È che ognuno risponde una roba diversa, quindi cominciamo ad avere delle aspettative, però ognuno dice una cosa diversa. Sei di poche parole, prego. E ci spiazza. Vai. Posso immaginare anche alcune risposte, no, ovviamente, di alcuni noti personaggi molto discussi del movimento milanese. No? Esatto. Sai che ci stai per consigliare chi chiamare dopo, per esempio? Lo so, ma io credo che dovreste chiamare, ma forse l'avete già fatto, un resident lì di Zam. E a chi alludi? A proposito di principe, al principe Max. Al principe Max. Ma in questo momento penso che sarebbe la telefonata di Zona Rossa più divertente che mai, proprio chiamarlo ora. Adesso infatti dopo lo chiamiamo. Perché tu magari ti... aspettate un attimo a chiamarlo, no? Esatto, magari aspettiamo un attimino, così a caldo ci fa anche una cronaca magari di com'è andata. Perché credo che in questo momento sia in un altro Zam e chi può capire. Esattamente. Niente, freddissimo Teo, perfetto. Sì, no, cioè, ti chiameremo più spesso e comunque ci è piaciuto molto. Pensaci. Non so, ma volete discutere di robe noiose, non so, il futuro del socialismo, le rivolte negli Stati Uniti, la vedi. Matteo, pensaci, guarda che qua c'è posto, davvero. Quando non hai impegni, ci mettiamo d'accordo, veniamo qui, due birrette, tre spinelli. È quello che ci manca. Ragazzi, vi dico, allora, no, anzi, compagni, scusate, ragazzi, è un po'... È colloquiale. Sminuirvi della vostra grandezza. No, vorrei dirvi che quando Milano in Movimento raggiunge 20.000 like, ormai ci siamo, direi, ce ne mancano 40, 42, potrei diventare più assiduo delle trasmissioni. Mamma! Aspetta che mando tipo la pagina a tutti e tutte. L'avete registrata questa... Certo, ovvio. Sei al 59esimo minuto della puntata, tranquillo che adesso lo stacchiamo e lo mettiamo poi negli archivi. Poi ci sarà anche il podcast, quindi esatto. Te lo potrai anche ascoltare. Quindi noi ai 20.000 ti scriviamo e facciamo il contrattino. Dai, magari facciamo le notturne come nei periodi gloriosi. Potresti accompagnarti con un'altra trasmissione che sta nascendo, che non so se ne hai sentito parlare, si chiama Midnight Max. Oh mio Dio! Musica mezzanotte. Io faccio il contraltare, sicuramente sarebbe una bella coppia. Beh, io potrei venire qui nel divanetto e toccarmi mentre voi conducete la radio. Sarebbe anche una deliziosa coppia interrazziale, no? Sarebbe anche da filmare. Passerebbe molto bene come insomma, propaganda e tutto, insomma. C'era anche una foto che documentava una scena patetica del genere ai tempi di Santa Croce con il cartello di quei belli dell'autonomia. Se riesco ve la ritrovo. Sì, purtroppo è una foto che riaffiora spesso. Vabbè, Insomma, Matteo, per chiudere, così ti liberiamo da questa ridicola telefonata. No, ci scusiamo. Veramente gloriosissima. Gloriosissima, grande. No, se vuoi consigliarci una canzone da ascoltare. Qualsiasi, quella che vuoi. Una canzone da ascoltare. Sì, così la mandiamo. Ma va bene qualsiasi stile. Sì, sì, sì, sì. È indifferente. Sì. Ma io direi un po' banale, però è uno dei miei pezzi preferiti, 1979 degli Smashing Pumpkins. Dagli, dovremmo anche avercela direttamente. Yeah, ce l'abbiamo. Grande, ce l'abbiamo, vinile. E addirittura, certo, abbiamo tutti i vinili da qua. Allora adesso lo ascolto. Ci sono i vinili preferiti che sono qua di fianco, poi c'è la libreria in fondo, per andare in quella magari ci mettiamo un po' di più. Però puoi scegliere. Sì, ma non coglionatemi, nel senso che adesso dite: ah sì, la facciamo sentire, poi no, non fate sentire. Ma tu devi collegarti per ascoltare. Non è che non mi conosco. Devi fare la prova del 9. No, certo che la facciamo sentire e l'ascoltiamo noi in religioso silenzio. Secondo me farete sentire tipo 5 ore di Stalingrado ripetuta. Quella è la mattina presto. No, noi mettiamo anche tipo Camillo Bene che legge Majakowski e robe del genere. Esatto. Cose pop proprio. Sì, piacevoli, così rilassanti. però ascolta mentre metti giù, poi adesso collegati. Comunque, per te. Confermi Max da telefonare? O ci consigli qualcuno? Max, ovvio. Sono curioso di sapere. Cosa dice? Cosa dice? Qual è la prima cosa che hai evidenziato? Io un dubbio ce l'avrei. Vabbè. Un paio di persone ce l'hanno questo dubbio, non so. Sì, un paio di migliaia forse. Va bene. Guarda che ti aspettiamo in palinsesto, eh. Siamo Dai pronti. Ragazzi, vado a preparare la pizza che sono diventato un cuoco fenomenale. Mentre ascolti Radio ZM. Esatto. Grande Teo. Un abbraccio a tutti, ci vediamo in piazza. Yes. Cos'è il 6? Sì, venerdì, bravo. Gioia, 15 saluta. In piazza San Babila. Ciao Teo. Dai, baci, ciao. Smashing Pumpkins 1979, tutta per voi, andiamo a prendere macio. Like white right above the street. Andiamo avanti con la corona sonora più matta che mi ricordava un sacco Zona Rossa. Questa è Stretch, Why Did You Do It? Sempre Lock and Stock. I've been thinking about what you have done to me. The damage is much deeper than you'll ever see. Hit me like a hammer to my head. I wonder where you pushed or where you led. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? The only one who knows the truth, man, that's him, me and you. My friends, they listen to the things I say. They listen and they hear more every day. But I know they never understand it. Because it was no accident, you planned it. Why did you do it? Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why did you do that thing to me? The only one who knows the truth, man, that's him, me and you. One, two. Tedesca music. Ci stiamo, io mi sto adoperando per entrare a gamba tesa con quello che vorrò fare, che è musicare, cioè scusate, prendere dei pezzi di culo, Gioia, guarda. Prendere dei pezzi di film e mandarli in onda, pezzi di film proprio parlati con tutta la, come se guardassi il film, ma al posto di guardarlo lo sentite, basta. Lock and Stock, Guy Ritchie, andate a pescarvelo perché è un film pazzesco. No, dicevo che è andata di culo Gioia, perché è tutto il tempo che vuole mettere della musica lei, delle canzoni, eh? Ah già, è vero. E il computer ne ha selezionata una che purtroppo, secondo me, a lei piace, quindi verrà... Ah, guarda! Curiosa! E quindi il destino, il fato ha voluto che tu venissi accontentata. Dai, facciamo che quando che i The Blaze... se ne vanno, ci ascoltiamo quella lì, ok? Così yes. È tutto più bello. Intanto andiamo a chiamare chi ha reso possibile tutto questo. Chi... io lo chiamerei dopo la canzone, però, no? Dopo la canzone? Ok, dopo, dai, allora sì. Ce la tarantelliamo un po' sui The Blaze, sì, sì, e poi andiamo tremenda giuria. Ma no, Chiara magari c'ha da dirci. Carina. Auria, sì, scusa. No, ma dicevo, magari Chiara c'ha da dirci qualcosa. Come dite? Dici, Chiara, dici. Ciao, sono Chiara, sono molto contenta di essere qui. È un po' il mio sogno da quando sono piccina. E poi basta, fine. Poi basta. Beh, il sogno si è realizzato, grazie a Zona Rossa, tutto questo è molto bello. No, sono un po' spiazzata, devo dire, da questa cosa di essere qui in presenza e non attaccata ad un telefono. Beh, poi effettivamente è cambiata un po' questa stanza, abbiamo aggiunto quei 250 metri quadri di libreria, dei sì, vinili. C'è un loft gigantesco qua in radio, posso raga. Capire che spiazzi, posso capire. Sì, sì, sono c'è un loft, più. C'è un tapirulan per allenare sì, esatto. I polmoni, avere cioè, l'angolo dei vocalizzi. Poi non, mi sembra che ci sia anche lo spazio per l'ufficio di Teo, volendo, no? Mi sembra... C'è lo spazio. Siamo stati lungimiranti perché ne abbiamo parlato circa 6 mesi fa e abbiamo detto potrebbe starci bene un ufficio di Teo. Poi ovviamente ce la siamo presa con calma, però i lavori dovrebbero essere finiti nel giro di qualche giorno, siamo pronti. Sì, sì, c'è sì, dell'abusivismo edilizio, ma come sempre, a parte questo... Ci piace, sì. Lo rivendichiamo. Chiamo, quindi Teo, se ci ascolti, stiamo finendo di prepararti l'ufficio. Anzi, quindi... ti sta arrivando un messaggino in questo momento perché ti pensiamo, ti scriviamo e ti parliamo nello stesso momento. Quindi leggi il messaggio e rispondici. Quindi rispondi ascoltandoci e pensandoci nello stesso momento. Esatto, è un messaggio a sfondo politico, culturale, quindi il tuo pane, direi. Poi te lo sta chiedendo lui, quindi te l'ho scritto proprio come se fosse un colloquio di lavoro. Vedi di accettare immediatamente, altrimenti sarà peggio per te. E quindi fra 30 secondi esaudiremo il desiderio di gioia. Ma sì, di, ma io la skipperei. Di non essere tagliata fuori no, definitivamente no. Da Zona Rossa con tutte le sue volontà. Non la traccia, questi 30 secondi. Oh. Ah sì, sì, li skippiamo al volo. E gioia, preparati a danzare come solo tu sai fare. Quindi tutti per voi, dillo tu. Esta noche di tremenda jauría. No puedes hacer nada que me convenza. Quiero bailar cumbia hasta que amanezca. No voy a dormir contigo esta noche, aunque prometas llevarme en tu coche. No puedes hacer nada que me convenza. Quiero bailar cumbia hasta que amanezca. Luce de neón pa' la adrenalina. Sacio cielo pa' hacer ron con taurina. Mucho CO2 de sudor calima. Y pa'l mañaneo pelar mandarina. Y es normal que cuando se me sol de prima. Pero es que esto grave con mi tristeza rima. Y así ya nadie pincha la bilirrubina. Yo le pico al DJ, tira tu cabocina. Sexto de diastro, el tempo del templo del bafle. La tienda al calor de su grave. Cultura de baile ingobernable. No hay nadie que quiera que acabe. Sate de día y seguimos ardiendo. Sobran palabras, hablan los cuerpos. Cambia el clima cuando baila mi gente. Madrid es tropical de repente. Esta noche, aunque prometas llevarme en tu coche, no puedes hacer nada que me convenza. Quiero bailar cumbia hasta que amanezca. No voy a dormir contigo esta noche, aunque prometas llevarme en tu coche, no puedes hacer nada que me convenza. Quiero bailar cumbia hasta que amanezca. Luces de neón, calor a destajo. No lo pienses, mándale al carajo. Mucho gin tonic, alisa todo trapo. Todo el mal de amores bailando. No vuelvo a casa sola, mi bici me guía. Madrid sobre ruedas, mucho menos fría. Domingos en el barro, resacas de espanto. Y a base de risas salimos del fango. Thank you. No puedes hacer nada que me convenza. Quiero bailar cumbia hasta que amanezca. No voy a dormir contigo esta noche, aunque prometas llevarme en tu coche. No puedes hacer nada que me convenza. Quiero bailar cumbia hasta que amanezca. No voy a dormir contigo esta noche, aunque prometas llevarme en tu coche. No puedes hacer nada que me convenza. Quiero bailar cumbia hasta que amanezca. A chi c'è? C'è qualcosa, cioè, tu li conosci questi qua, cosa hanno fatto? C'è qualcosa nella forma d'onda che mi dice che stanno ancora suonando, senti. E ci sono le Paperelle. Ah, le Paperelle. Certo. Ho capito, bellissimo. Come in ogni buona canzone di reggaeton, ovviamente. Vuoi spiegarmi questa cosa o spiegarla agli ascoltatori e ascoltatrici che non ascoltano questo genere? Ce ne saranno pochissimi, allora, sicuramente. C'è da dire che Tremenda Cauria è un gruppo di reggaeton femminista, anticapitalista, antirazzista. Ok. E che abbiamo ospitato, tra l'altro, in concerto qui a Zam. Sai che il concerto live è su questa radio? A volte parte. Sì, sì, sì. C'è il podcast del live. C'è il vinile del concerto. Sì, perché noi registriamo anche in vinile. Abbiamo inciso durante la serata. Ci piace così, perché ci piace così. E Zona Rossa va avanti anche con reggaeton. Non ce lo saremmo mai aspettato. Tra l'altro lo vendiamo, questo vinile, è introvabile. Se qualcuno lo vuole può scrivere su Telegram. 150 euro, poi vi facciamo sapere le coordinate. Esatto. Una long plane di un bel concerto che abbiamo registrato qui live, bellissimo. Bellissimo, esatto, me lo ricordo bene. Andiamo a chiamare colui che ci dirà se il reggaeton era veramente quello che avrebbe sperato per Zona Rossa. Quindi proviamo a sentirlo, se non sta mangiando, se sta mangiando ci risponderà, sperando che metta il viva voce, così che possiamo salutare tutti quelli che sono con lui. Colui che sogna rotaie. Intanto sotto sono arrivati le Tartit. Direttamente questi. Oh, grande Orso, ma come stai? Da quanto tempo è che non ci sentiamo? Cavolo, che coincidenza! Mi sei passato per la mente, ho detto, ciao, chiamiamo Gulli, chiediamo di come sta. Ma guarda che tutti i pensieri che fai, io speravo che fossero finiti ormai, che avessi passato la migliore vita. Scusami, faccio una cosa orrenda, scusa. Devi sapere che io odio i fazzoletti, quindi ho appena snarisciato fuori dal balcone di casa di bello nature, come piace a noi. Esatto. Questa è molto Zona Rossa. Guglielmo, bentornato, benvenuto, tra ben arrivato. Come siamo sullo snariccio fuori tutti, dal balcone? Tutti, ciao! Cosa è? Ciao, ciao! Ciao, Chiara! Ma infatti, ciao a tutti e tutte le persone presenti in studio, tranne Gioia. No, Gioia è l'unica senza il microfono in questo momento perché gliel'ho rubato io. Facciamoci e quindi, due domande. Ma va bene così, va bene così, infatti, non c'è problema. E diamoci delle risposte. Che merda. No, ma dai, ma allora. Beh, come risposta direi che ci sta. Comunque, Gioia è l'unica che dice le parolacce, incredibile. Ride. Ovviamente, ride, fa parte del mio personaggio, del mio nome. Bene. Beh, bella questa. Guglielmo. Vabbè, scusaci Gulli, perdonaci, abbi pazienza. Dai Guglielmo, intrattienici un po', come stai, cosa fai? Facciamo una domanda a Gulli, che secondo me Gulli ci ha pensato e ha una risposta molto... No, ma Guglielmo, intanto ci stavi ascoltando, è la prima domanda. Beh, minchia, sì, ovvio, se no come faccio a essere l'unica persona che vi scrive su Telegram, tipo? Hai ragione. Così, beh, io scriverei sulla fiducia. Sì, esatto. Allora, no, in realtà non ho pensato alla risposta alla domanda e devo ammettere che in realtà da bambino giocavo parecchio con gli evidenziatori, mi sono sempre piaciuti i colori sberluccicanti perché sono una persona semplice, quindi le cose che sfavillano mi attraggono. E quindi potrei dire che avevo iniziato a usare dei svariati pennarelli a casissimo per evidenziare le parole, perché ho visto che qualcuno più grande lo faceva e ne traeva grande profitto. Poi ho detto lo faccio anch'io perché sono già la prossima grande, e poi in realtà semplicemente stavo pasticciando i libri di mia madre, che penso mi abbia assestato qualche bella sberla, se non mi ricordo male. E poi 16 anni dopo hai imparato a leggere e hai scoperto che cosa avevi evidenziato? No, perché non ho imparato a leggere, tuttora studio con dei libri fantastici che hanno un sacco di figure e quindi continuo a sporcare i libri a caso con gli evidenziatori. Solo ecco mia mamma non mi picchia perché sono troppo grosso e non ci arriva. Tu qua. Mi sembra giusto, possiamo picchiarti noi se vuoi. Esatto. Lo facciamo con gran piacere. Bisogna essere onesti, lo sapete che in realtà è bellissima la formazione così, è un bel programma, così è un bel programma. Bah, oddio. Dai, Gulli, cioè, non smettila. Per favore. Devi tornare. Che, cioè, dopo Gioia, che sinceramente. Qua, a parte Gioia, qua abbiamo tutti da fare. Quindi, cioè. Che Gioia ha insistito per esserci. Gli ho fatto 4-5 battutacce che magari mollava il colpo. Invece, no. Arcini è venuta, le sto facendo ancora adesso e lei regge il colpo incredibile, cioè vuole proprio esserci. Perché sono resiliente. Resiliente, Gioia, hai capito? In realtà la cosa più bella anche che avevamo pensato, ovviamente dopo ore e ore di discussione, era di finalmente decretare l'inizio di zona blu e farlo il mercoledì e di fare zona rossa il sabato sera. Cioè, nel senso, immaginati una zona rossa dove la gente alcolico e hardcore, oserei dire, cioè la gente si autoinvita, si infila, rubano i microfoni, Gioia che non parla, disagio un casino, sì, vero. Cioè, tu pensa a diminuire il numero di ascoltatori perché sono tutti in serata tranne noi che siamo in radio. Ma Guglielmo, io e te l'abbiamo già detto che io e te il sabato sera non usciamo più, vero? Ma vabbè, ma tanto non uscivamo già prima. Esatto, esatto. Che... quindi secondo me Lorenzo siamo... deve parlare di tristezza il sabato sera. No, no, ha io il mercoledì vuole parlare dell'onda di istruzione. Quello lo tengo il mercoledì, in cui se Guglielmo è al lavoro posso anche trasmettere da solo, invitare i miei ospiti macabri a venire qua a presenziare con la loro morte, zona blu, che sarà un'altra cosa, mentre zona rossa trasferiamola al sabato sera a sto punto e facciamo cacciara, facciamo un disastro. Ma aspetta, ma sai cosa si potrebbe fare, Lorenzo? Come la vedi fare una zona tipo zona blu notte, in cui tu sei tipo Lucarelli e fai quella posizione con le mani, quella cosa un po' strana che unendo le dita, no? Però Gulli così però entra in conflitto con Midnight Max. Adesso abbiamo solo programmi notturni. C'è da dire, Guglielmo, zona che rossa, le ribelli e gli altri 17 puntate sono anche tutte Midnight di notte. Max. C'è da dire comunque che per la proposta che hai appena comunicato c'è tanta stima da parte mia nei tuoi barlumi di genio ogni tanto, veramente, perché io al liceo adoravo Lucarelli, ero un suo fan, soprattutto quando veniva imitato, e non sto scherzando, ho anche letto Lucarelli e io parlerò con Macio della questione della notte, proveremo a dividerci le varie notti che ci saranno da qua domani in poi, perché sono 7 alla settimana, dobbiamo capire un po'. Ci penserò. Comunque sei bravo. Ci penserò. Sette notti alla settimana. Sei forte. Ci penserò. Esatto, esatto. Ci penserò bene. Perché ha studiato il ragazzo. Zona blu notte. Devo dire che non mi dispiace per niente. Ci penserò. Bravo, sei molto bravo e carissimo. Ora, se c'è qualcuno in studio, lo abbatte per cortesia. Fa un favore a tutta l'umanità. Dici una canzone. E qualcuno da chiamare per chiudere. Allora, qualcuno da chiamare ci devo pensare. Prima la canzone per chiudere, quindi anche il nome è un nome importante perché è l'ultimo. Non abbiamo chiamato la star di Zona Rossa che chiamiamo sempre, sappilo. Al telefono spento. Non ci vuole più bene. Mannaggina. Però, ma tanto io avrei delle acque. Mamma mia. Musica. Dai, non fare finta di non pensare alla casa degli specchi. No, davvero. Allora, io guarda, se vuoi, io stavo pensando addirittura di omaggiare che cosa? Che poi, nel senso, chi cazzo siamo noi per omaggiare chi? Perché siamo degli soliti idioti, però dico, cazzo, tutto quello che sta succedendo in America, ascoltiamo i Rage Against the Machine. Ehi. Killing in the Name of, direi. Bellissima, la dedichiamo a Fergi. Esatto, Fergi che vorrebbe essere lì e la persona da chiamare. Ma scusami, quindi non si parla più di fosforescenza? Cazzo, io volevo. Ma certo, la stiamo tenendo in caldo, certo, assolutamente. Ok. Allora potremmo chiamare una persona un po' fosforescente, una persona che si accende di notte. Chi è che si accende di notte? Secondo me, se mi risponde al telefono, che potrebbe essere fantastico, perché se non lo chiamo io risponde Dupe, persona che si accende al buio. Anche perché a Dupe è stato chiesto di fermarsi a zona rossa e ha rifiutato, quindi possiamo andare a prenderlo. Sì, andiamo a prendere Dupe. Se no andiamo a prendere Dupe sotto casa e gli citofoniamo. Esatto. Dai, se no qualcun altro che si accende al buio, tipo Cigo, dai, un classico. Riproviamo Cigo, se no Dupe, dai, facciamo così. Ah, ok, dai, grazie. Abbiamo mille. Trovato il vinile. Grazie a te, compagno. Grazie. Ciao, Gulli. Ciao, fate i bravi, tranne Gioia. Gioia può anche non fare la brava, perché è ribelle. Grazie, Gioia. Esatto, lei è ribelle, sì. Ciao, Gioia. È ribelle, quindi fa la cattiva. E io... We'll be right back. told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Don't get down, but justify. Wearing a badge in your chosen right, but justify. Don't get down, wearing a badge in your chosen right, but justify. But justify. Some of those that burn crosses are the same that hold office. Some of those that burn crosses are the same that hold office. Some of those that burn crosses are the same that hold office. Some of those that burn crosses are the same that hold office. Cattivissimi, cattivissimi, come è giusto che sia. Fergi, non le abbracciare così. Fergi, calmo, piano. Ok, perfetto. Ma Fergi avrebbe preferito, quindi, la versione quella con la bambina che canta. Sì, perché ci ha fatto una testa tanta, ti giuro, con quel video. Madonna, che era bellissimo, veramente. L'ha continuato a mettere a ripetizione tipo per 3 giorni. Lo guardava ininterrottamente con 2 occhioni dolcissimi. C'è dell'istinto di paternità. Fergi, ci manchi a Radio Zem. Torna presto a farci compagnia. A Radio Zem? Ho detto Radio Zem. Io ho sentito Radio Zem. Allora, Radio Zem. Parli poco, senti male, ridi e basta e metti, oh, e metti il reggaeton. Allora, è un po' Radio Zen, perché in questo loft della radio abbiamo anche un giardino zen, nel caso ne volesse approfittare Coloni, tra l'altro. Esatto, esatto, perché è stato Leoni predisposto. Pensaci. Oltre alle stanze con i vinili, esatto, c'è anche questo. Grazie Gioia che ci ricordi dei nostri luoghi. Bene, andiamo avanti e andiamo a disturbare nuovamente una persona che evidentemente o è stata assassinata o altre cose, perché di solito il mercoledì tira le redini di questo programma. Avrete benissimo immaginato tutto, ma secondo me stasera non è la sera buona, perché ricomparirà. Sta squillando, è incredibile. Ho chiamato la persona giusta? Ho chiamato la persona giusta. Un cigone. Ehi là! Buonanotte! Pagli? Scusi, giovinotto. Buonasera. Scusi lei, ma perché prima non ci ha risposto esattamente? Perché non avevo, cioè, o meglio, ero impegnato in un'altra telefonata. Ah, un'altra telefonata di mercoledì sera. Ma quindi noi vediamo dopo qualcun altro? No, è che non ero, al momento non mi è arrivata neanche la telefonata, me ne sono accorto al termine della stessa. Samuele Cicognini, bentornato a Radio Z AM, sa mai che poi venga trucidato nuovamente da Gioia. C'è anche Gioia, yeah, stasera, sì. C'è anche Gioia. Ciao Cigo. Mamma, ma state rispettando ancora le distanze o no? Cosa? Certo. State rispettando le distanze o no? È difficile non farlo in 254 metri quadri, cioè anche lì. Ah, calcola, io sono al piano di sotto. Esatto. Cioè Pica, okay, nel superattico. Esatto. Ok, abbi il magico, sì, superattico, sì, di Io Gioia. Sono nel, sì, sì, giardino zen. Esatto. Gioia nel giardino zen. Gigi a vedersi i vinili perché voleva capire un po' come era messo l'archivio in sti giorni, meglio di così, okay, cioè veramente. Sì, sì. E invece poi tu passa nel cinema nostro personale, la saletta quella. Ma che madonna, che bello. Bella. Cigo, dici come va? Domani è un giorno importante, bene, o invece dobbiamo bestemmiare male? Raccontaci come. Dobbiamo bestemmiare male? No. Racconta che non possiamo fare così, che sennò non capiscono da casa. Allora, in data di domani avrei dovuto avere un esame di inglese, no? Seguendo le procedure che mi erano state date dalla segreteria, io mi sono iscritto e ho scoperto alle 8 di questa sera che io l'esame domani non lo posso fare perché non frequentante, e quindi devo darlo al secondo appello. Che quindi è. Dobbiamo bestemmiare in inglese, però. Esatto. Damn. Esattamente. Niente, Cigo, quindi che dire, io so che l'unica cosa che so di per certo è che tu mi hai fatto una promessa prima di uscire stasera, hai detto che mercoledì, sì, prossimo sarai a zona rossa fisicamente, noi ti aspettiamo. Direi, sì, dai. Terrai tu il programma, abbiamo deciso che mercoledì prossimo, oltre ad esserci Stide, abbiamo allungato il tempo a 4 ore e mezza di programma, io che e Gulli bello. Non ci siamo, Gigi ha da fare, forse Chiara c'è, ma sicuramente c'è Gioia. Oh. Ok. Va bene? Ottimo. Bene, vabbè, perfetto. Quindi devo tenere io la puntata anche. Se la fai tutta inglese, in inglese, ovviamente, la trasmissione vale come crediti formativi. E allora, sì, vabbè, proviamoci. Però poi te li revochiamo, perché ci piace fare una statale, fa queste cose, no? Oh, che bello. Niente, non ti faremo scegliere una canzone perché abbiamo fame, vogliamo andare a mangiare. Ma invece rimarrai qua ad ascoltare Chiara, che dà il suo preziosissimo contributo in questo momento a questa bellissima puntata di Zona Rossa. Cigo, mi raccomando, ogni 30 secondi ti facciamo una domanda. Oh mio Dio, che paura. Allora Cigo, intanto bisogna vedere se capisci più di me quello che sto per dire, perché io sono, okay, assolutamente preparata e impreparata. Cioè faccio, okay, una di quelle interrogazioni in cui tu parli a caso e speri che la professoressa non si accorga minimamente di questa cosa. Quante ne abbiamo fatte in passato? Quante ne abbiamo fatte? Tra l'altro più o meno sempre in queste materie qui. Esatto. Perché in realtà... Ah, perché di cosa si parla oggi? Di cosa si parla? Intanto nessuno ti ha fatto la domanda importante. Non è che c'è anche Gioia, ci sei anche te, prego, prego, avanzate. Allora, nessuno ti ha fatto una domanda importantissima, che è la domanda, oddio, del giorno, che riguarda la prima cosa che hai evidenziato nella tua vita. Che ho evidenziato, ma con l'evidenziatore? Questo proprio sta a te. Sta a te, devi decidere come ti viene di pancia. Highlighted. Mamma mia, che roba, che cosa difficile. Boh, penso che saranno stati i miei bei libricini di prima elementare, dove mi sottolineavo e evidenziavo le cose. Ci sta, quindi quando evidenziavi la teoria delle stringhe in prima elementare, sì, hai usato, sì, per, sì, la prima volta i tuoi stabilo boss. Non si può fare, esatto, pubblicità. Sì, perché comunque ero in una scuola per bambini speciali. E quindi facevate già la teoria delle stringhe. Esatto. Ci sta. Bello. No, io invece oggi, proprio perché questo era l'argomento del giorno, in realtà, tra l'altro, la nascita di questo argomento, possiamo dirlo, è dell'onorevolissimo generale Pappalardo. Esatto. Usti. E quindi abbiamo deciso se parlare, eravamo indecisi se parlare di 5G, di complotto mondiale, di 5G, okay, di complotto mondiale o di inutili mascherine. Ok, e alla abbiamo fine optato per di fosforescenza. Esatto. di fosforescenza. Niente di tutto questo, in virtù del fatto che Guglielmo era convinto che i gilet fossero fosforescenti. E invece no. Che invece no, evidentemente. Perché sono, possono avere delle bande catarifrangenti. Bravissimo. Madonna, bravissimo. Madonna. Vedi. Veramente, l'unico. No, possiamo l'unico. Parlare di catarifrangenza, questo è più facile. Di catarifrangenza si può parlare più facile. Vai. Ah, di catarifrangenti sono quei materiali che risbattono indietro il raggio di luce nella stessa direzione in cui l'hanno ricevuto tramite un simpatico gioco di specchi. Ah, ecco perché. Proprio così. Perché è la stessa direzione. Nella stessa direzione. Ed è diverso dalla parabola che converge tutto verso uno. Certo. Invece no, il catarifrangente lo rimbalza nella stessa direzione, ed è il motivo per cui poi si usa per dire per le fotocellule, tutte queste cose che abbisognano di. E si usa ovviamente anche per il gilet di Pappalardo. Esatto. Il quale esatto. Potrebbe non essere preso sotto per essere stato visto nella notte, ma potrebbe anche essere preso sotto proprio perché visto nella notte. Quindi potrebbe quindi essere. È un'arma a doppio taglio. Potrebbe quindi, essere duplice. Un riconoscimento notturno. Turno sì, che potrebbe costarti essere. Caro, carissimo. Beh, signorina Chiara, io vorrei fare un appunto proprio in questo. Ma no, ma partecipa, vai Ciro, entra sì, gamba tesa disturbando il tutto, vai. Generale Pappalardo non indossa il gilet, indossa la giacchetta, ha ragione. Ah, ah, e io ti vorrei correggere di nuovo, perché il buon generale Pappalardo in diverse occasioni non ha messo la giacchetta arancione, bensì la cravatta arancione. Intanto ancora spero peggio. Che tu stia parlando del generale Pappalardo alzandoti in piedi sull'attenti ogni volta che nomini il suo nome, punto primo. E non ti azzardare a mettere una mascherina, perché è tutta una stronzata. Non ti mettere una qua, mascherina, eh. Ma mettiti se vuoi uno di quei caschetti fatti con il Domopack. Esatto. Che protegge dalle bande del 5G. Ok, va bene. Però poi sì. Ti fa diventare una rice trasmittente, tu puoi parlare con la gente che ce l'ha, come walkie-talkie, capisci? Esatto. Beh, giusto. Perché beh, sono riusciti a varare il 5G a usarlo a loro, diciamo, piacere. Allora, sì, sì, diventi giusto. Telepatico. Diventi super telepatico. Che bello. Ma andiamo avanti, Cico, perché ti vedo sul pezzo. Allora, so che hai sete di sapere. Esatto. Sì, mi interrompete la doccia, però la farò dopo. Cosa ti interrompiamo, scusa? La doccia dell'anno, nel 2020. La doccia dell'anno. Quest'anno casca il ma 3 la di doccia giugno. Dell'anno? No, sei una persona dell'anno. Volgarotta. Gioia, sì, volgarotta. Questo è troppo anche per Zona Rossa. Cioè, lei è quella che dice sentito. Le parolacce, bestemmia in inglese, ma anche in altre lingue. E fa battute hard. Hard. A-R-D. Hard in inglese, perché siamo sempre in tema. Non mi stai sul pezzo. Non mi stai sul pezzo. Sempre sul tema, siamo. Ma sei diventato tutto buio. Andiamo avanti. Ma noi andiamo avanti lo stesso. E in tutto questo, niente, praticamente mi sono segnata delle cose. Adesso te le dico, Cigo. E poi mi dici che cosa capisci di questa cosa che dico. Va bene, proviamo. Allora, praticamente gli atomi di alcune sostanze. Madonna, c'ho anche la luce di Gioia. Gioia, oltre alle bestemmie, dice anche. Fa anche luce. Emana luce. Emana luce. Quindi praticamente la frase è la seguente. Gli atomi di alcune sostanze hanno la caratteristica di assumere uno stato di eccitazione se colpiti da fotoni, in tal caso si parla di fotoluminescenza, o elettroni, in capito, tal caso Cigo. Si parla di elettroluminescenza. Quindi in pratica che cosa succede? Che assorbono l'energia e per tornare allo stato di equilibrio precedente riemettono quanto acquistato sotto forma di luminosità. Ah, si scaricano così quindi? Si scaricano così. Beh, e mandando quindi luce. Per fare della possibile falsa informazione, penso che sia il principio degli starlight, quindi la reazione bravissimo. Allora, è molto bello che tu l'abbia detto, perché l'ho segnato anch'io nei miei appunti. Ma ci guarda, sono. Guarda, ma quanto, guarda quanto feeling. Perché in realtà ci sono. Questa cosa è vera per più fenomeni, mettiamola così. Okay. Uno di questi è la fosforescenza, che è quello che erroneamente Guglielmo pensava appartenesse al generale Pappalardo, che brilla di luce propria, ma quello è un altro, è un altro fenomeno. È come... Non ha bisogno di fenomeni, è già lui un fenomeno. Esatto, esatto. Quelli intorno a lui brillano di luce riflessa. Esatto, da lui. Quindi emanata. Come la luna, diciamo. E invece okay. Poi, rispetto al fenomeno di cui stiamo parlando, ci sono più possibilità. Una è la fosforescenza, l'altra è la fluorescenza, okay. Che è okay. Molto simile. Come il dentifricio fluorescente. Esattamente. E l'altra invece è la, fra le altre diciamo, c'è la chemiluminescenza. Cos'è? La chemiluminescenza. Mai sentita in vita mia. Che è quella dei Cigo, l'hai mai sentita? No. No, niente. Neanche Cigo, quindi siamo allora, sicuri che l'umanità non lo sa. Praticamente come funziona? La differenza è questa. Per quello che ho capito io, torda, che non sono altro che un livello di alfabetizzazione scientifica bassissimo. Ho fatto il classico, quindi non ho fatto lo scientifico, non so neanche niente del classico. È molto bello. È molto bello, non so né le lingue antiche che non servono a niente, né i fenomeni fisici e chimici che servono. Niente. Un dramma. Comunque, praticamente la fosforescenza riemette questa energia presa da fuori con la luce, ma nel corso del tempo. Quindi, per esempio, le stelline, quelle che si attaccano sul muro nelle sì, certo, del... certo. Ce l'avevo da bambino, esatto. Per orientarmi di notte. Esattamente. Quelle lì sono fosforescenti. E dopo un po', infatti, perdono la loro carica, esatto. Dopo un bel po'. Esattamente. Le cose fluorescenti, invece, rimbalzano la luce, ma immediatamente. Fondamentalmente la differenza fra le due cose è questa. Sono infinite, quindi, quelle fluorescenti, quindi. No, quelle fluorescenti illuminano nel preciso istante in cui viene sbattuta. Non tengono una carica. Esattamente, che poi li lasciano praticamente andare. Loro prendono la luminosità anche al di fuori dello spettro del visibile e la rimbalzano. Credo che gli evidenziatori, anzi senza credo, gli evidenziatori sono fluorescenti, non fosforescenti. Ok. E sono le cose che si possono vedere con la lampada UV, quella di CSI. Esatto, o quando entri nelle discoteche tamarre che bravo, ti si illuminano le cose bianche di acceso. Bravo, perché viola. Perché a suo modo sono fluorescenti anche quelle, cioè okay. Chiappano una parte della luce, diciamo, non nello spettro del visibile e la restituiscono sotto forma del visibile. Quello che invece fa la chemiluminescenza è più o meno la stessa cosa, ma provocata da reazioni chimiche. Quindi praticamente dalla reazione chimica fra un elemento X e un elemento Y, la risposta è un terzo elemento, un elemento Z, e diciamo l'energia che ne esce in più è tramite luminosità. Ok. Quindi gli stick lights, quelli delle discoteche, io volevo dire anche un altro... sono proprio questi. Esatto. Cioè quelli lì si rompono e nel rompersi entrano in combinazione... Aspetta che me lo sono scritta tra l'altro. Praticamente il caso dei light stick sono... I componenti chimici principali sono acqua ossigenata, difenilo salato, qualsiasi cosa sia. Prendi appunti, Cigo. E un pigmento fluorescente da cui dipende il colore, cioè giallo, blu, verde, viola, rosso, arancione, bianco. Quindi praticamente queste cose fanno reazione chimica e oltre a un prodotto di questa reazione chimica ne esce anche una luminosità. Ok. E quindi questa effettivamente poi sta e va avanti. Quando si... Finisce. Questa cosa si manifesta anche in alcuni animali. Come per esempio le lucciole. Perché le lucciole chiappano fuori, tirano fuori degli ormoni, suppongo, non so, delle cose chimiche, evidentemente. E anche a prescindere dalla luce, cioè non hanno bisogno della luce che hanno tipo catturato. Esatto. Esattamente. Mentre alcuni animali sono fluorescenti. Quindi hanno bisogno e di quindi hanno bisogno, ma anche fosforescenti, ma hanno bisogno della luce. Ok. Quindi alcuni diciamo, si possono vedere nel, per esempio, un sacco di queste cose, al di là delle lucciole, che sono degli animali molto graziosi di cui abbiamo più esperienza, diciamo, nel mondo normale. Ma se noi abitassimo nell'oceano e facessimo nell'oceano, poi insomma, gli amici di Fergi, esatto, gli amici di Fergi, gli zingari del mare, amici di Fergi, se noi abitassimo nelle prossimità dell'oceano, sapremmo che ci sono un sacco di crostacei, molluschi e tutte le cose che effettivamente rimbalzano indietro alla luce, mentre solo alcuni. Compagno, io vi devo mettere giù purtroppo. Cosa? Che cosa? Fallo, sì, fallo, no, senza salutare, no, come in zona rossa. Puoi. Butta giù. Non ciao, ci salutare ciao, neanche. Ciao, compagno, vi prego. Ciao. Fai una doccia. Shower. Shower. In inglese shower. Tutto questo è ridicolo, io sporgerò reclamo, andiamo avanti. Esattamente, quindi no, niente, in realtà il buon Cigo ha bloccato di poco il mio flusso di sapere che si stava esaurendo, perché in realtà alcuni crostacei e molluschi possono essere luminosi anche abitando tipo a 3.000-4.000 metri sotto. Quindi di luce. Quindi di luce ciaone proprio. Io ho presente quella scena di Nemo dove a un certo punto incontra un pesce assurdo che però so che esiste, che ha una specie di lampadina. Non è tipo la rana pescatrice? Boh, dobbiamo andare a cercarla dopo, però esiste una cosa. La dei mari. Una cosa stranissima, che ha una cioè che emana luce, però è una scena in cui loro finiscono nel profondo nero, cioè vanno proprio in fondo. Sì, credo che in realtà diciamo di luce, ovviamente, man mano che scendi ne arriva sempre meno nell'oceano, ma c'è un punto in cui la rifrazione dell'acqua, che mi sembra sia intorno ai 3.000-4.000, però potrei sbagliarmi, in cui proprio la luce è impossibile che arrivi. Sì, quella è una parte super ansia, mi fa super ridere. Ansia, Madonna. Esatto. Bene, bene, molto bello, benissimo. Sono quindi ringraziamo il generale Pappalardo per questo spunto. Grazie, generale. Ovviamente siamo con te. Bisogna stare attenti, perché è un colore che viene usato un po' troppo spesso, che può testare confusione. Però vabbè, sono scelte che uno fa, gli piace. Però il beta carotene fa anche molto bene. Esatto, in realtà, se esatto, il generale Pappalardo vuole prendere del sole, esatto, ne verrà fuori con una abbronzatura della Madonna. Poi sarà difficile, ma se dovessero ipoteticamente scontrarsi giallo e arancione, potrebbe sembrare tipo il succo Ace che si spreme, volendo, sì, quindi viene quella sete estiva, magari quest'estate qualcosa viene Madò fuori. Dici gilet jaune. Dici, Gioia, ma do cosa? Gilet jaune. Cosa? Madò. Ok, niente, Gioia, l'abbiamo definitivamente persa, soprattutto con la battuta di prima, quindi vorrei non chiedere a Gioia della musica, ma chiederla a Chiara, io qua ce l'ho, in live, io ce l'ho, perché lo sapevo che se l'era preparata, ce l'ho, e finalmente, è giusto, finalmente può controllare che io scriva bene le canzoni, sì, le questa volta è facile, bene, perché almeno siamo qua. Sì, guarda, veramente, sei una esatto, delusione di diludendo. Attenzione, no, attenzione, un messaggio freschissimo dalla nostra amica Pesce, ci scrive e ci dice, Chiara, leggi tu. È il Pokémon Lanturn? Chiedo, chiede di rimanere anonima, tra l'altro. Niente, ha chiesto di rimanere anonima, ma zona rossa infama tutti. Quindi, grazie Lorenzo. Grazie Lorenzo, grazie Pesce. Veramente. E sì, è il Pokémon Lanturn, perfetto, sa di questa mia debolezza verso il mondo dei Pokémon. E non è assolutamente una cosa segreta, ma io me la rivendico giorno e notte. Quindi, anche Bish, se Chiara, la sì, abbastanza, lo so, ci condividiamo questa cosa, esatto. Dici Bish. Siete andati in... No, dici Bish? Dici Chiara. No, non lo so, bisogna chiederlo a lei. Che forse vuole rimanere anonima. Esatto, però non lo sarà. Chiara, io vorrei avanti scegliere questa canzone che mi piaceva tantissimo quando ero piccola, di un rapper che secondo me è underrated, molto underrated, che è Johnny Cage. E la canzone è Luce nel buio. Giusto appunto. No. Gianni? Guardalo, guardalo, guardalo, guardalo, guardalo. Guardalo, dov'è? Attenzione. PMC vs. Kendo. Quella, eccola. Quindi io vado a fare un giro nel reparto vinili, mi sono segnato la traccia, intanto Gioia vi intratterrà per i prossimi 3-4 minuti, neanche, prego. Beh, è una grandissima responsabilità e vorrei condividerla. Ti accompagna Goran Bregovic. Vai. Vorrei condividerla con Chiara. No. Vai. Allora, di cosa ci vuoi parlare, Gioia? C'è qualche cosa che non so, che su cui vuoi che mi esprima come mio solito? Tipo, vuoi che parliamo delle... non lo so. Posso raccontare una storia che racconto sempre a tutti e tutte e che anche in radio mi capita di raccontare spesso? Allora no. No? I nostri assidui, i nostri assidui ascoltatori l'avranno già sentita. Cioè, o è original. Minchia, le scale sono lunghe. Arrivo. Il vinile è pronto? Gioia, volevi dire qualcosa? No? Grazie mille, perfetto. Dai. Quindi... Ma io non lo so. Ma non, cioè, la storia, vabbè, dai, abbiamo detto che andavamo fino alle 21. Ormai lasciamo con questa suspense. No, ma c'è anche Goran che chiede la storia, senti. Vai, dici, Gioia. No, niente, che le femmine della Iena Maculata partoriscono dalla clitoride, che è una clitoride particolarmente pronunciata e che è lunga quasi come il pene di un esemplare maschio. E infatti a suo tempo, secoli se non millenni fa, adesso non ricordo, si credeva che fosse un animale ermafrodita. E invece poi si scoprì che così non è. E un modo, per esempio, per riconoscere la femmina dal maschio è guardare... Una fa le iene e l'altra no. Ma prima o dopo, anzi dopo, si può vedere che c'è questa lacerazione sulla clitoride e che quindi permette di distinguere la femmina dal maschio. Ma questo solo se hanno già partorito, però? Sni, sì. Cioè, questo è sicuramente un modo... Questo è il crollo della teoria gender nelle iene. Esatto. Che potevano essere un po'... Quello no. Che volevano, e invece no. No. No. Vabbè, dai, sesso anche... biologico bloccato. Anche le anche iene per possono, loro. Possono essere chi vogliono, secondo me. Non lo so, adesso che gli hai spiegato questa differenza, forse non lo vogliono più fare. Quest'estate andiamo a chiederglielo. Va bene, facciamo un'intervista. Bene, a me è passato l'appetito, siamo tutti contentissimi. Evviva Zona Rossa. Grazie mille a chi ha fatto compagnia a un disperato che non sa più con chi stare per fare questo programma. Vi ricordo. Grazie per essere state le ultime ruote del carro, se è questo che intendevi dire. Grazie, veramente, sei carinissimo. Se vuoi andare a fare pillola blu, esilio, lo puoi fare nella nostra zona di confino dello studio. Sarà alla fine di Midnight Max, che finirà più o meno verso le 4 e mezza di notte. Io mi infilo con ritardo alle 5 per liberare la radio alle 8 del mattino, va bene? Dalle 5 alle 8 sarà il mio esilio. Io volevo ricordarvi i nostri canali, la nostra bellissima chat su Telegram, Radio Zam trattino basso chat. Gioia vi ricorda tutto il resto. Cazzo. Allora, vediamo. Gioia se... dice le parolacce anche questa volta. Gioia, hai 28 secondi. Allora, 27, abbiamo 26. Il canale. Oh, stai zitto. Allora, abbiamo il canale Facebook, cioè il profilo Facebook di Radio ZAM. Abbiamo il canale di Instagram, Radio Zam. E Radio Zammi Sud e canale Telegram che è già stato ricordato, e abbiamo anche la sezione dei podcast archive oppure sul sito di Zam. Bene, ti sei trovata in corner, annuncia la traccia, Chiara. Dall'album PMC vs Club Dogo, Gianni Cagey, Luce nel buio. Ci sentiamo settimana prossima. La notte dominerà, ore per sempre, accompagna la civiltà, un fumo pungente che rende questa realtà, sogno cosciente, s'accende l'umanità sotto il mordente di un Dio che risponderà per la sua gente. Non so che succederà nell'Occidente, i soldi, la civiltà, tutte le scienze, a paglia da cercherà un mondo incosciente, la luce che viene da sole morente. Non so cosa spegnerà il fuoco rovente, la pioggia che scenderà questo novembre, o l'acqua che scorrerà dalla sorgente, la sabbia che porterà via la corrente. Vedi le nuvole a frotte nelle notti chiare, che porteranno le piogge con il temporale. Vedi gli aerei e le flotte di nazioni avare, i movimenti e le rotte delle truppe ignare. Vedi le feste e le nozze tra le notti chiare, vogliono uccidere il giorno e farlo tramontare. Vogliono il buio per sempre, sempre dominare, addormentare la gente tra le zuola mare. E tra le braci luci della terra cara, tre nubi fragi, il fuoco che li illuminava, sogni malvagi, il vento che li accompagnava, davan presagio a un mondo che dimenticava, tra fiumi aridi, fumi di lava, cieli laceri, nel buio che dilaga volti matidi, nel sangue di chi spara sulle lacrime, la polvere e la strada sono pagine, sono scritte con la spada con le mani, in mezzo al sangue che sgorgava sulle anime, che han pianto per chi ama sono pagine, sono scritte sulla lava, illuminava il buio, il fuoco brucia, scende, ma tornerai, luce bianca che splende, tramonti ma tornerai, luce lucente, o la notte dominerà, ora e per sempre, vedi le nuvole frotte nelle notti chiare.